Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, sono le 16.33, Nova Lab, la voce dell'innovazione. Oggi parliamo di una corsa un po' strana, un po' diversa dalle altre. Non vince chi arriva prima, non vince quello che è più veloce, ma vince chi consuma di meno. È la Shell Eco Marathon Europe, sarà in Germania. Ci sono 13 team italiani in corsa. È un giochino che riguarda poco più di 300 studenti da tutta Europa, 220 team. Ho sbagliato a dire i numeri. Comunque avremo qui le squadre e ne parliamo subito dopo le news. Denunciati 6 hacker tra i 21 e i 65 anni d'età che da Milano, Ascoli Piceno e Napoli rubavano da conti correnti di ignare vittime. Rubavano dati personali come numero di conto corrente, numero di carta di credito e codici di identificazione a ignari navigatori del web, per poi sottrarre i soldi e movimentarli su vari conti correnti. I carabinieri hanno accertato che sono 23.000 gli euro transitati sui loro conti. Presentato oggi il Nokia N8, la risposta della casa finlandese all'iPhone. Camera digitale da 12 megapixel con ottica Carl Zeiss si collega al televisore in alta risoluzione e monta per la prima volta il nuovo sistema operativo Symbian 3. L'ambizione è di connettersi a tutto il mondo internet e a quella dei social network. Nei negozi arriverà a partire da luglio con un prezzo di vendita stimato attorno ai 370 euro. Proprio come gli uomini, gli scimpanzé soffrono per la morte di un loro simile. Questo è il responso di due studi pubblicati oggi sulla rivista Current Biology che hanno osservato la reazione di questi primati nel momento del decesso di un membro del loro gruppo. Grazie alle telecamere piazzate nella gabbia di uno zoo scozzese, lo psicologo ha potuto osservare gli ultimi giorni di una scimpanzé femmina di 50 anni circondata dai suoi compagni. Le reazioni osservate, spiegano gli scienziati, indicano che la loro consapevolezza della morte è probabilmente molto più sviluppata di quanto non si immagini. 16.35, noi siamo in collegamento, come avevo promesso, con Alessandro Ferraris della squadra H2 Polito Molecole da Corsa del Politecnico di Torino. Buongiorno. Buongiorno. E con Francesca Cocco del Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica. La squadra si chiama MechSun, dico bene? Esatto. Allora, restate un attimo con me che facciamo sentire agli ascoltatori che cos'è, anzi facciamo capire, raccontiamo che cos'è la Shell Eco Marathon e diamo un po' di numeri. Fra poco più di una settimana saranno in Germania impegnati nella più grande sfida all'insegna della mobilità sostenibile. Parliamo di studenti, tecnici e ingegneri che con grande passione e tenacia parteciperanno alla Shell Eco Marathon Europe. L'appuntamento per circa 3.000 studenti di tutta Europa, 220 team in tutto, è per il 6 e il 7 maggio sul circuito Eurospeedway di Lausitz, in Germania, vicino a Berlino. 13 team italiani provenienti sia da istituti tecnici sia da università e politecnici che hanno scelto di seguire questo ambizioso percorso. I gruppi hanno dato il via a un progetto per costruire un veicolo che utilizzi la minor quantità di carburante per percorrere una distanza prestabilita, producendo il minor tasso di emissioni. Non si parla quindi di battere i record di velocità o essere i primi a tagliare il traguardo. Qui il vero obiettivo è dare vita a progetti concreti per favorire e agevolare una mobilità davvero sostenibile. Allora, rieccoci, mi è stato detto che insomma la notizia di quest'anno, di questa edizione, è la presenza femminile. In particolare dall'Italia ci sono 14 donne in 8 team. Ho guardato bene la squadra di Alessandro Ferraris e voi siete tutti uomini. No, abbiamo 4 donne, anzi abbiamo una caratteristica, il nostro faculty advisor è proprio una donna, pensi un po'. Beh, allora dal sito c'è proprio una scala, il capissimo è donna. Quota rosa più che rispettata. Inoltre abbiamo altre 3 ragazze, tutti ragazze che studiano ingegneria di vari rami. di primo livello e niente, quindi no, le quote rose sono più che rispettate, direi, più che rispettate. Su 18 membri all'Auschwitz 4 saranno donne, quindi insomma, sì, è la prima volta, un buon risultato. È la prima volta per voi? No, no, sarebbe per noi il terzo anno, siamo comunque un team molto giovane, il terzo anno vuol dire che siamo al terzo veicolo prodotto, un grande risultato e non è comunque la prima volta. Che c'hai sotto il cofano, dai? Intanto ormai la macchina è pronta. Sotto il cofano abbiamo una tecnologia che conosciamo abbastanza, cioè idrogeno stoccato a 200 bar, una fuel cell che appunto tramite una particolare processo di combustione genera energia elettrica, quindi qualcosa di pulitissimo, circa un bicchiere d'acqua per circa 30 km percorsi, quindi molto, praticamente impatto totalmente zero, direi. A che velocità e vai? Motori elettrici. Guardi, Hydra non è un prototipo realizzato per forti velocità, si muove generalmente a circa 30 km all'ora, in realtà è in grado di andare molto molto oltre, siamo arrivati anche, diciamo per sbaglio, sui 47 km all'ora, quando è priva di controlli, insomma, quando non è controllata come dovrebbe. Quindi... Ma questa è la tecnologia che fa correre di più, cioè io ho visto che ci sono varie tecnologie che vengono impiegate, il solare, l'etanolo... Sì, guardi, è una delle tecnologie. La sfida, quando si ha di fronte una sfida globale, no? Come quella del basso consumo, del rispetto, diciamo, dell'ambiente, e non si ha del tutto forse un'idea dove muoversi, tutti implementano tecnologie diverse e vinca il migliore, no? Vinca la soluzione migliore, quella che effettivamente sul campo dimostra di essere la più convincente, quella che consuma meno e quella che è più realizzabile. Si ricordi che le cose devono essere anche realizzabili, però. Certo, ma secondo te qual è la più forte in questo momento? Chiaramente quella che avete montato voi. La nostra è stata una sfida addirittura direi personale, cioè la classica sfida dell'uomo nei confronti di qualcosa che non conosceva. Molto spesso nei politecnici si parla poco di queste tecnologie come solare, idrogeno, se ne parla ancora poco, soprattutto per quelli come me sono ragazzi che studiano il primo livello di ingegneria meccanica. È quello che sostanzialmente è stata per noi una sfida, cioè capire fino a che punto ci si può spingere con delle soluzioni alternative, capisce? Fino a dove si può arrivare. Quindi per noi è la migliore, ma probabilmente ce ne saranno anche di altre. Qual è l'ambizione Ferraris? Cioè che vuoi fare da grande? Io da grande studio ingegneria meccanica, mi piacerebbe tantissimo lavorare in qualche grandissima azienda, diciamo col cavallino rampante, questo sarebbe la mia idea. La butti così, cioè un po' di curriculum, tanto per... Se lei me lo chiede io questo le rispondo. Ti dovevi dire, no, io voglio battermi con il solare, i pannelli In effetti questo è, ma si può anche fare l'eco-competizione, non è mica detto che si debba per forza correre per arrivare primi su un traguardo nel miglior tempo possibile, tutti lo stanno capendo questo, e perché non si potrebbe provare a instillare una nuova visione anche in queste persone? Certo. Che sono sempre... Capisce cosa vuol dire? Potrebbe essere una nuova sfida anche la mia, no? Cioè... Assolutamente sì. Passiamo a Francesca Cocpoco, che lei invece guida. Esatto. Pilotessa, no? Si dice così? sì. Allora, per te è la prima volta e vabbè, insomma, cioè, la domanda è banale ma è doverosa, cioè perché pilotessa? Perché pilotessa? Perché, hanno mandato avanti te sostanzialmente? Sono stata scelta. Ma c'era una gara, avete fatto delle prove? No, le prove sono ancora in corso, anzi giusto oggi avremmo dovuto provare al circuito di Monza, secondo la scaletta. In realtà poi noi abbiamo una macchina solare e a Monza purtroppo oggi il sole non c'era proprio, quindi è stato tutto posticipato a domani. Infatti io effettivamente sul veicolo non ho ancora guidato effettivamente l'ultima versione di questo nostro veicolo. Sono salita però, a vettura ferma sì, è emozionante già quello, sicuro che già quello è emozionante. Ecco Coco, ma non è un po' un azzardo? Perché andate in Germania, ora a Monza non è che è la Sicilia, però a Germania è un po' peggio, cioè è più facile beccare nuvole. Questo sì, però non è certo la prima volta che ci si presenta in Germania con un prototipo solare, cioè, anche perché esatto. Tra l'altro la Germania è il paese che ha il più alto numero di pannelli solari, nel senso sono un... quindi il problema non è stato così tanto preso in considerazione, diciamo. Però... che anche l'anno scorso si è gareggiato con lo stesso tipo di macchina, ovviamente. Deve esserci il sole, questo è ovvio. Senti, anche per te ti chiedo la stessa cosa di Ferrari, cos'è che vuoi fare da grande? In realtà noi gareggiamo sia con un prototipo a pannelli solari, sia con un prototipo a idrogeno. Ah, ok. Abbiamo un doppio team, questo sicuramente. Sì, noi abbiamo un doppio team e portiamo in pista due macchine. Quindi... Senti, ma mi dici che da grande vuoi fare il pilota, sì? No. Magari sì. Beh, perché? Mica brutto. Perché no? Esatto. No, beh, io studio ingegneria, non sono un ingegnere meccanico. Sono con il... Ma lo dici un po' come meccanica. Scusarti, non sono un ingegnere meccanico. Beh. No, beh, perché è doveroso dirlo. Sono pilotessa, ma non ho lavorato direttamente sulla macchina. Nel senso che, appunto, non essendo ingegnere meccanico, non ho lavorato direttamente sulla macchina. Sono in procinto di fare una tesi con il Dipartimento di Meccanica, e il fatto di essere pilotessa non mi dispiaceva assolutamente. Hai unito le due cose insieme? Esatto, sì. Anche ho fatto combattere le due cose, che penso sia una cosa positiva, insomma. Anche perché poi lo capiremo con Patrizia Sferrazza dopo, però cioè, mi sembra di capire che sia anche un posto divertente quello. Cioè la gara, la competizione, i ragazzi. Sì, ma è tutto l'insieme, nel senso che proprio a livello di team si respira una bellissima aria, c'è complicità, c'è fiducia. Un po' come il rugby, dai, è il rugby delle corse. Anche. 16:46, adesso mandiamo una scheda per capire anche un po' che tipo di macchine andranno a correre in Germania. Sono due i tipi di veicoli che gareggeranno in pista. I prototipi, veicoli aerodinamici a tre o quattro ruote dall'aspetto futuristico, dove il principale interesse di progettazione è ridurre la resistenza massimizzando l'efficienza, e gli urban concept, cioè veicoli più simili a quelli che vediamo tutti i giorni, creati con criteri più convenzionali delle quattro ruote che li rendono idonei alla circolazione su strada. I veicoli partecipanti possono essere alimentati con carburanti convenzionali, diesel, benzina e GPL, gas propano liquido, oppure con fonti d'energia alternative, come per esempio idrogeno, biocarburanti, GTL, gas to liquid, energia solare o etanolo. I team impiegheranno tre tipi di motori, a combustione interna, a pila a combustibile e ad energia solare. Si può quindi affermare che l'unico limite alla progettazione dei veicoli è l'immaginazione dei team, nel pieno rispetto delle importanti norme di sicurezza. Allora, noi siamo in collegamento con Patrizia Sferrazza di Shell Italia, ma questa volta vinciamo? Buon pomeriggio. Diciamo che abbiamo ottime possibilità con i team italiani che si presentano quest'anno. Ma gli anni scorsi com'è andata? Cioè, fanno amicizia? Cioè, c'è realmente un clima del rugby, oppure è una competizione come tutte le competizioni che si rispettino? Insomma, vinco io, vinci tu. Diciamo che questa grande sfida si caratterizza per veramente uno spirito di cooperazione e di team. E quindi certo, c'è la sfida di voler vincere e aver lavorato tanto per progettare e costruire un veicolo che utilizzi la minor quantità di carburante per percorrere il maggior numero di chilometri possibili col minor numero di emissioni. Quindi c'è l'orgoglio di vedere un risultato della propria squadra, ma c'è anche tanta cooperazione tra i diversi team coinvolti e più di 3.000 studenti che veramente si scambiano idee in modo appassionato. Quindi c'è uno scambio, non c'è solo, cioè, c'è un segreto industriale o c'è un segreto industriale condiviso? Prima Ferrari su un po' mi faceva capire che non conta tanto la tecnologia, ma poi conta più che altro il fatto di sperimentare. Diciamo che nella mia esperienza, ormai diversi anni che partecipo all'evento, si riassume un po' in questa frase: la ricerca non è soltanto nei grandi investimenti, nella tecnologia, ma fare ricerca vuol dire prima di tutto stimolare una sensibilità e creatività che induca anche dei comportamenti virtuosi. E questo è quello che cerchiamo di fare alla Shell Eco Marathon sul tema della mobilità sostenibile, dove si mettono a confronto giovani con background differenti, spesso tecnici ma non solo, impegnati in un lavoro di team sia a casa durante la preparazione che poi durante l'evento, per raggiungere un obiettivo che è quello di pensare alla mobilità del domani. Ecco, io volevo chiedere una cosa ad Alessandro Ferraris, che gareggia per il Politecnico di Torino, ma in università come siete percepiti? Sì, innanzitutto un ambiente universitario come quello del Politecnico è un ambiente di un certo livello, nel senso che normalmente non siamo percepiti estremamente bene, chiaramente stimoliamo a tutti i livelli l'università stessa. Questo perché? Perché un progetto non è soltanto fine alla competizione, ma un progetto educativo. Cioè, no, ma quello che infatti volevo capire è se poi all'interno, visto che queste sono anche operazioni che servono per lanciare chiaramente un messaggio, volevo capire se poi all'interno delle università si crede, poi questa è una trasmissione che insomma dà molto credito a tutto ciò che riguarda le energie sostenibili, per cui i nuovi modelli anche di business. Vorrei capire se all'interno delle università è passato questo messaggio, se realmente i professori si stanno mettendo al lavoro o se è per ora qualcosa che attiene solo alla comunicazione. No, c'è molto di più. Cioè, ci sono un progetto come il nostro può sembrare un semplice progetto appunto di ragazzi, in quanto sono i ragazzi che prendono ogni singola scelta tecnica e condividono la competizione, il manufatto, costruiscono, pensano. Ma il bello di un progetto come questo appunto è che stimola tutti i livelli e che crea un background anche dei giovani domani. E capisce che un ragazzo come me domani mattina, tutti i ragazzi del mio team, 30 e qualcosa ragazzi, e domani mattina saranno magari dei professori, saranno dei professionisti stimolati già a partire dai 20 anni, diciamo, dalla giovane età, a pensare in un certo modo, giusto? A raffrontarsi in un certo modo con anche le istituzioni, con le aziende, e a stimolarle verso anche per esempio l'ecocompatibile piuttosto che diciamo qualcosa di più utile a tutti. Quindi anche i professori poi vedono crescere un aspetto, come dire, più professionalizzante, più nuovo, anche semplicemente nuovo. È molto bello. Io penso che anche nel Politecnico di Torino stia nascendo qualcosa di davvero interessante a tutti i livelli. Le posso dire, per esempio, ci sono anche dei progetti di aerei a fuel cell all'interno del Politecnico. No, ne abbiamo parlato su Nova 24 degli aerei. Fammi sentire anche a Milano che cosa succede. Francesca Coco? Sì. Anche da voi c'è una sensibilità diversa? È cambiato qualche cosa? Beh sì, come diceva l'altro ragazzo, non è soltanto riferito al singolo studente che lavora sul prototipo, c'è molto molto di più, ci sono collaboratori, ci sono docenti e docenti che stanno dietro al progetto. Effettivamente tutto parte da loro, parte dai docenti che trasmettono proprio la passione per la meccanica, partono dal loro sapere e cercano di far fare direttamente allo studente fisicamente sul campo, e sono arrivati a degli ottimi risultati. Stanno dando un contributo a tutto, non stanno lavorando solo per loro, lavorano un po' per tutti, lavorano per le generazioni future. Sì, no, la mia speranza è che fuori dall'università, è che fuori dall'università insomma si stia attrezzando anche un mercato capace di accogliere voi, accogliere anche queste nuove capacità, nuove teste insomma, che ragionano in una maniera diversa. L'ultima battuta però la volevo fare con Patrizia Sferrazza. Chi è che è più forte? Proprio torniamo alla competizione. Chi è che è la squadra più forte, la nazione più forte, insomma il nemico da battere? Ma diciamo che tra tradizione di paesi magari del nord Europa dove certi temi di sensibilità alla mobilità sostenibili negli anni passati si sono comunque dimostrati abbastanza all'avanguardia, come anche la nostra manifestazione che nasce 26 anni fa in Francia per poi trasformarsi in un evento europeo e poi addirittura globale, sicuramente giocano il vantaggio di aver iniziato prima. Credo comunque che il risultato raggiunto dai team italiani, dove abbiamo ormai 13 team, 9 università, 9 team universitari, insomma, coinvolti. Presenza massiccia. Esatto, la presenza massiccia faccia comunque sia comunque un segno di interesse sempre più vivo nello stimolare appunto questa innovazione, queste idee per un'efficienza energetica, un sistema di trasporti per il futuro. E credo che anche i risultati raggiunti negli scorsi anni, abbiamo 2 team in linea e posso citare entrambi, siano stati comunque molto positivi, okay. E comunque il debutto e comunque in bocca al lupo. È finito il nostro tempo, ringrazio Sferrazza ma siamo ampiamente fuori, in bocca al lupo per la Germania, magari ci sentiamo dopo maggio, vogliamo sapere com'è andata. Grazie, io ringrazio anche Ferraris e Cocco e buona competizione.